C'è da dire che inizialmente l'emendamento presentato da Sandro Bondi e Mario Pepe di Forza Italia prevedeva 10 milioni di euro. E poi nella discussione alla Camera, anche perché una parte della maggioranza si è messa di traverso, ecco, lo stanziamento è stato ridotto a 5 milioni. Questi 5 milioni saranno destinati al mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto dei detenuti. Quindi ecco, l'ambito è molto più ampio. C'è da dire che il versante della sanità penitenziaria è senz'altro quello più bisognoso, però io già ieri leggevo un comunicato dell'ANSA nella quale il sindacato autonomo di polizia penitenziaria SAPPE sostanzialmente si lamentava perché il comparto sicurezza non era stato preso in considerazione da questo stanziamento, e quindi rivendicavano un po', ecco, il fatto, il diritto che una parte di questi soldi siano spesi, ecco, per gli agenti di polizia penitenziaria. Tornando al comparto salute, la sanità penitenziaria davvero è arrivata a un punto, una situazione decisamente drammatica. La finanziaria dell'anno scorso ha ridotto del 23,7% lo stanziamento per la salute penitenziaria. Quindi questi 5 milioni di euro vanno a reintegrare solo una minima parte di quella che è stata tolta l'anno scorso. Facciamo soltanto un rapido calcolo. Nel 2001 per la salute dei detenuti venivano spesi 120 milioni di euro. La scorsa finanziaria ha destinato in tutto 70 milioni di euro. Quindi in 3 anni c'è stata una diminuzione di circa 50 milioni di euro. Ecco, se quest'anno ne aggiungono 5 è una goccia nel mare di quello che è stato levato, capite? Sono state tagliate risorse all'assistenza farmaceutica, e qui devo dire anche in maniera meno dolorosa rispetto ad altri settori, perché sono stati introdotti l'uso dei farmaci generici che costano meno, ma altri tagli clamorosi sono stati fatti, ad esempio all'assistenza specialistica. L'assistenza specialistica, dove non è che si può introdurre anche qua un'assistenza generica, no? E questo ha fatto sì che a metà dell'anno sono già esaurite tutte le risorse, tutti i fondi per pagare i cardiologi, i dentisti, eccetera eccetera, tutti gli specialisti che non lavorano direttamente le dipendenze delle carceri ma sono in convenzione. Quindi altro taglio clamoroso all'assistenza infermieristica. Ecco, per cui ci sono situazioni paradossali, anche qui a Padova ne abbiamo uno di questo tipo, dove c'è il medico di guardia che per contratto deve essere assolutamente presente anche di notte, ma di notte non ci sono infermieri perché non ci sono soldi per pagare gli infermieri, quindi il medico stava solo. Sono mancati 50 milioni di euro nelle ultime 3 finanziarie per questo comparto, ecco.